Il problema è che bisogna contestualizzare i fatti, nel senso ci sono, secondo noi ci sono due questioni. Una è la questione che subiscono i lavoratori, anche gli autisti, le pressioni, diciamo la poca regolarità a livello contrattuale, le pressioni che subiscono sia dalla committenza a volte che li spinge a correre per portare questi pacchi, sia dai loro padroni, in questo caso d'amore, gli fa pressione. Poi dopo tutto ciò, quindi, che comunque non fa tutti i camionisti, anzi, come delinquenti, dopodiché però cioè in questo caso qua l'autista ha chiaramente e volutamente tirare sotto i lavoratori, quindi chi ha schiacciato il pedale deve pagare, quindi per noi non è un incidente stradale, questo è un tentato omicidio, capiamoci. Per noi è premeditato, perché lui ha schiacciato il pedale, va sapendo che ci sono della gente davanti, cioè è abbastanza chiara la dinamica, poi bisognerebbe anche capire per quale motivo poi gli è andato domiciliare, ma la dinamica è chiara, lui ha spinge un pedale con delle persone davanti e quando le persone sono coinvolte dentro il camion lui continua il percorso, quindi si trascina dietro per 40 metri ad Hill e dopodiché fugge in autostrada, dopodiché chiama un poliziotto per farsi consigliare, per farsi dare una mano, quindi mi sembra chiarissima la cosa, quindi non ci sono dubbi sull'intenzionalità di schiacciare i lavoratori, quindi l'intenzionalità di fare quello che ha fatto, penso che sia premeditata la cosa, quindi non si può dire che è un incidente stradale il fatto, cioè non è successo per caso. Voi date anche però una lettura più politica, perché i problemi che ci sono nel mondo della logistica imbarazzano forse anche la politica, quindi il sospetto che si voglia mettere, insomma, a tacere poi tutti i motivi per cui ci sono gli scioperi. Un altro lato è questo, che comunque sia non vorremmo che questo diventi un fatto per comunque demonizzare il sciopero. Lo sciopero è un diritto dei lavoratori, e nel caso anche di Lidl e tutto c'era problematiche serie, c'era un'irregolarità contrattuale dei lavoratori, dove avevamo un part time ma facevano più delle ore contrattuali, tutta una situazione irregolare, come abbiamo denunciato da 10 anni, da quando siamo presenti abbiamo cambiato le cose nella logistica, quindi demonizzare gli scioperi e farli diventare un problematica mi sembra una cosa che non si può fare ed sarebbe anticostituzionale tutto, quindi vorremmo anche far capire che il problema è la regolamentazione anche degli autisti, perché molti autisti si scambiano le rimorchio oppure cambiano il disco per fare orari che non posterebbero fare altrimenti, quindi c'è tutta una serie di cose che noi abbiamo chiesto poi anche al Ministero, un incontro, due incontri, uno per la FEDIS, per la soluzione dei 280 lavoratori che ancora stanno fuori a Piacenza, e per il riconoscimento, per la rappresentatività che per noi in questo momento qua è inadeguata, e un altro per comunque le situazioni nella logistica, visto che conosciamo bene, cioè, e abbiamo lavorato, io stesso ho lavorato in BRT, quindi conosco cosa succedeva nei magazzini tutto e cosa succede, direi che siamo l'interlocutore giusto per capire, anche perché gli altri sindacati confederali ormai sono troppo distanti dai lavoratori, non entrano da anni in magazzino e forse qualcuno non è mai entrato a lavorare nel magazzino, quindi capiamoci. E questi sono gli due incontri, perché c'è un'irregolarità che a volte va esasperata, non in questo caso perché non c'è niente da dire, ma in molti lavoratori abbiamo trovato anche autisti che devono pagare la cabina per dormirci. Oltre alla morte di Adil, sto pensando a Lodi, sto pensando ad altre situazioni, sono diverse le occasioni in cui è stata agita della violenza contro di voi, vi siete fatti un'idea del perché? Ormai lo sappiamo da un po' d'anni, siamo un po' scomodi politicamente, perché finché c'è il Sicobas, diciamo, padroni politica non può fare quello che vuole nei confronti dei lavoratori, ok? E invece vorrebbero fare con contratti che hanno firmato i confederali, l'ultimo poi è scandaloso, cioè scandaloso sarebbe poco, è ovvio che comunque la presenza del Sicobas oggi in Italia diventa un problema che non fa gestire come vorrebbero gestire politica, sindacati, confederali, quindi collusi anche loro e padroni, quindi costo del lavoro che si alza, lavoratori che stanno molto meglio, che comunque prendono in mano la loro vita, prendono in mano anche il magazzino, la sicurezza e tutto, questo vuol dire che comunque sia quando hai sicurezza il magazzino e tutto, vuol dire che il costo del lavoro aumenta e i padroni, anche direttamente anche politici e Stato, ovviamente non vogliono questa cosa qua, però noi ci siamo, credo che abbiamo dimostrato in più tempo che ci hanno attaccato diverse dall'arresto di Aldo, altre situazioni siamo stati attaccati già altre volte e credo che succederà ancora che orchestrino qualcosa su di noi, però noi credo che la strada sia quella giusta, perché comunque i lavoratori hanno capito, i lavoratori credo che il consenso dei lavoratori sia a sufficienza e ci basti anche per capire che la direzione è giusta.